Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Siglato a Gorizia in prefettura con Confcommercio un protocollo sulla sicurezza in chiave antifurti e antirapina e a tutela degli esercizi commerciali. 9 migranti trovati a bordo di un treno nella stazione di Villa Opicina ad allertare il personale ferroviario le grida di aiuto proveniente dall'interno di uno dei vagoni. Morto all'ospedale di Catinara il giovane detenuto egiziano ricoverato dopo aver tentato il suicidio nella sua cella del carcere del Coroneo. Verso il voto amministrativo del 13-14 aprile oggi prima a Pordenone, poi a Monfalcone, la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. Una villa è stata sequestrata dai carabinieri di Lignano, appartiene al titolare di un'azienda di pulizia condannato per omesso versamento delle imposte. Presentato a Pordenone Docs Fest, le voci del documentario, i contenuti della nuova edizione nell'intervista al direttore Riccardo Costantini. Dopodomani un nuovo recruiting day a Pordenone, in ballo oltre 1.100 posti di lavoro dal settore amministrativo alla logistica, 375 le candidature idonee. Basket, l'analisi del coach Adriano Vertemati all'indomani della vittoria dell'Old Wild West al Palaradi contro la Juvi Cremona per 79-68. Le 12:31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova. Questa mattina è stato siglato a Gorizia dalla prefetta Esther Fedullo e dal presidente di Confcommercio Madriz un protocollo d'intesa per la sicurezza che riguarda gli esercizi commerciali. Serviranno a questo le telecamere di videosorveglianza per chi vorrà installarle all'interno delle attività commerciali della provincia di Gorizia. Un allarme antirapina collegato alle sale operative delle forze dell'ordine. Il primo passo è stata la firma del protocollo d'intesa in prefettura tra i soggetti coinvolti, istituzioni, associazioni di categoria, polizia, carabinieri e guardia di finanza. Esther Fedullo è il prefetto di Gorizia. Opera non solo nell'ottica della prevenzione, in quanto importante deterrente nei confronti di potenziali autori di episodi criminosi, predatori nei confronti dei negozi, ma anche un importante strumento di indagine per, in caso di commissioni di reati, per assicurare gli autori alla giustizia. Un protocollo voluto dal Ministero dell'Interno e condiviso in una città dove non c'è un allarme sicurezza per quanto riguarda le attività commerciali. La guardia però non va abbassata, sottolinea l'assessore regionale Roberti. La richiesta del sistema di videosorveglianza dovrà partire dai commercianti, che dovranno anche capirne l'utilizzo per evitare falsi allarmi. Servirà alla tutela di un territorio che sta per entrare nella fase più calda dell'evento capitale della cultura. Gianluca Madriz, presidente Confcommercio Gorizia. Di fatto ci mette nella condizione, attraverso delle risorse già stanziate, stiamo parlando più di 360.000 euro, che devono appunto sostenere l'impresa con un finanziamento pari al 100% dell'investimento fatto, affinché si dotino appunto di questi sistemi. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. All'indomani del ritrovamento di alcuni migranti a bordo di un treno merci fermo alla stazione di Opicina, indagini sono in corso per capire se si tratti di un nuovo canale d'ingresso della cosiddetta rotta balcanica. Appunto, le indagini per stabilire età e nazionalità e destinazione e provenienza dei migranti sono in corso anche con la collaborazione delle forze di polizia di Slovenia e Croazia. A dirlo è la questura di Trieste, secondo cui il rintraccio ha riguardato 4 persone, tra cui un minorenne, invece della decina segnalata in prima battuta. Ad allertare il personale ferroviario erano stati i rumori e le grida di aiuto provenienti dall'interno di uno dei vagoni. Dopo i controlli effettuati dai sanitari, le condizioni di salute dei migranti non erano apparse preoccupanti. Il minorenne, ha spiegato la questura, è stato affidato a una struttura apposita, mentre agli altri è stato consegnato un documento che li invita a presentarsi per formalizzare le procedure di identificazione. C'è invece riservatezza, vista le indagini in corso, sulla provenienza del treno merci, in ogni caso un paese dell'area balcanica. Secondo la questura, è troppo presto per dire che l'attraversamento del confine sui merci sia una modalità consolidata per l'ultimissimo tratto della rotta balcanica. In ogni caso, è tenuta sotto controllo anche in collaborazione con le polizie dei paesi vicini. Un punto di vista condiviso da Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, secondo cui l'uso del treno da parte dei migranti non è una novità. Fino a qualche anno fa prendevano i treni passeggeri, poi c'è stata una stretta nei controlli. Il passaggio sui merci non è così diffuso, probabilmente, conclude Schiavone, il motivo è legato alla scelta dei trafficanti di provare anche questa modalità per attraversare il confine. È morto ieri mattina nell'ospedale di Cattinara dopo che mercoledì scorso aveva tentato di togliersi la vita in una cella del carcere del Coroneo, dove era rinchiuso da un mese legandosi le lenzuola al collo. Aveva 29 anni, si chiamava Walid Mohamed Saad ed era arrivato in Italia dall'Egitto. Walid, senza fissa dimora, era in carcere per una rapina. In gennaio ad Alessandria aveva aggredito un minorenne rubandogli lo zaino, ma era stato fermato ed era scattato l'obbligo di firma. Ma senza punti di riferimento era stato disposto che si trasferisse e che rispettasse la misura in Piemonte. Ma era stato individuato dalle forze dell'ordine a Trieste, così il giudice ne ha disposto il trasferimento al Coroneo. Qui era stato aggredito da altri due detenuti, ha fatto sapere il suo legale. Soffriva molto la condizione carceraria. A sua tutela, dopo l'aggressione, era stato disposto venisse spostato nell'area riservata agli isolamenti. Quando il personale del 118 ha raggiunto il carcere, le sue condizioni erano molto gravi. Intubato, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara. Un uomo ha tamponato l'automobile che lo precedeva con tale violenza da causarne appunto il cappottamento. È successo ieri notte verso le 22 sulla strada regionale 13 tra la frazione di Basaglia Penta e l'aerobase di Rivolto. Al volante dell'auto tamponata c'era una donna che è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Udine e Codroipo e poi affidata al personale Sores. È intervenuto anche l'elisoccorso. La donna ha una spalla lussata e sono in corso altri accertamenti sulle sue condizioni. Incolume invece il conducente che ha causato l'incidente, si sospetta che avesse bevuto, indagano i carabinieri. È crollato il tetto di una palazzina a due piani al villaggio del Pescatore, comune di Duino. È successo alle 9 di questa mattina. Nessun ferito. I vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina, un'ulteriore squadra, l'autoscala e il funzionario di guardia. L'intervento di soccorso si è concluso con la messa in sicurezza delle parti pericolanti sulla via e sulle proprietà adiacenti. La pagina del tempo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, da variabile a nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 13,5 gradi, Gorizia 17, Udine 16, Pordenone 15,5, Tolmezzo 13,5, Forni di Sopra 11, Tarvisio 10, Piancavallo 7, Sappada 6, Monte Lussari e Monte Zoncolan 3, Lignano 15,5, grado 14. Le previsioni: oggi variabilità dal pomeriggio, possibile qualche rovescio sui monti, specie prealpi, e in seguito anche sulle altre zone. Non si esclude qualche isolato temporale. Domani il cielo sarà variabile, con possibili piogge sparse dal pomeriggio, più probabili sui monti, ma possibili anche su pianura e costa. La campagna elettorale per le prossime elezioni comunali. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli è oggi in regione. La sua visita è partita da Pordenone e si concluderà a Monfalcone, due delle quattro città nelle quali si vota il 13 e 14 aprile. La visita in regione della ministra per le disabilità Alessandra Locatelli inizia dalla Fondazione ANFAS Giulio Locatelli di Pordenone, realtà che si occupa di persone con disabilità gravi e gravissime, offrendo 48 posti residenziali e 30 semiresidenziali, 8 per minori e 3 nuovi appartamenti dedicati a un progetto di autonomia di prossimo avvio. Il Friuli Venezia Giulia è all'avanguardia nel sostegno alle disabilità, anche con spazi come questi, non chiusi ma aperti al territorio, ha detto la ministra, che poi ha visitato l'unità di urgenza e prevenzione per l'autismo, struttura sanitaria di nuova costruzione della Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone e della attigua casa per il dopo di noi da 5 posti. Gli edifici sono stati inaugurati lo scorso novembre e se ne attende l'apertura, rallentata da difformità tra legge nazionale e regionale, in particolare il regolamento per le residenze protette, che prevede un minimo di 18 ospiti. Dalla Fondazione la richiesta alla Ministra di sollecitare le regioni affinché si adeguino ai principi della nuova legislazione nazionale in materia di disabilità, che tra le altre cose prevede la deistituzionalizzazione. La Ministra Locatelli. Credo che siamo arrivati davvero a un punto di svolta e penso che bisogna andare avanti dritti, perché unire il percorso della presa in carico della persona dal punto di vista della salute, del benessere e anche dal punto di vista sociale è fondamentale, perché le persone hanno bisogno di tutto. Quindi sicuramente un'ottima idea quella di innovare il servizio dal punto di vista sanitario, altrettanto importante sostenere il dopo di noi, fondamentale per i bambini, i ragazzi con autismo e per le famiglie. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Mercoledì sarà a Trieste il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani per una visita ufficiale al segretariato esecutivo dell'iniziativa centroeuropea. L'incontro rappresenta un'occasione per approfondire il ruolo strategico dell'INCE nel rafforzamento della cooperazione tra i paesi dell'Europa centro-orientale e balcanica in un momento cruciale per la stabilità e l'integrazione regionale. Ad accogliere Tajani sarà il segretario generale dell'INCE Franco Dalmas. Fra i temi in agenda, il sostegno all'allargamento dell'Unione Europea, i progetti di sviluppo sostenibile e alla connettività transfrontaliera, il continuo supporto all'Ucraina e il rafforzamento dell'INCE. Si parlerà di sicurezza questo pomeriggio nella seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Trieste. I lavori cominceranno alle 17. La sessione, dopo il question time e le interrogazioni dell'opposizione, sarà dedicata alle domande dei consiglieri sul tema, a cui risponderanno l'assessore alle politiche della sicurezza Caterina De Gavardo e il comandante della Polizia Locale Cittadina Walter Milocchi. Tra gli argomenti anche le zone rosse di recente istituzione, che dovrebbero scadere il 31 marzo e per le quali si attende una proroga. I finanzieri di Lignano Sabbiadoro hanno confiscato una villetta latisana del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, riconducibile a un uomo giudicato colpevole del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Il provvedimento è stato emesso sulla base delle indagini svolte dalle Fiamme Gialle a carico di una società del settore delle pulizie nelle strutture ricettive e turistiche. Nello specifico, la società si era resa responsabile dell'occultamento di parte dei ricavi, oltre che dell'omesso versamento delle imposte dovute e delle ritenute dei lavoratori dipendenti. Le indagini hanno portato alla condanna in primo grado dei coniugi amministratori della società, sentenza poi confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Trieste. Potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, elettrificazione e allungamento della banchina sono le sfide del porto di Monfalcone, di cui ha parlato stamane il commissario straordinario del sistema portuale del mare Adriatico orientale, ospite di Buongiorno Regione. Monfalcone è il porto più a nord del Mar Mediterraneo e dunque il più vicino all'Europa continentale, è parte del sistema portuale del Mare Adriatico orientale e svolge un ruolo complementare al porto di Trieste. Tipiche attività sono: uno, il traffico legato al siderurgico, quindi i metalli, poi i prodotti forestali, la cellulosa, la carta. Abbiamo poi le auto nuove che hanno bisogno di grandi piazzali e quindi le auto che arrivano con queste navi specializzate e che trovano qui degli spazi. Abbiamo i project cargo, insomma diciamo diversi traffici legati fondamentalmente però alle filiere industriali. Questo differenzia il porto di Monfalcone da quello di Trieste, che invece è più collegato, oltre che al petrolio, alle unità intermodali. Ecco, qui non c'è intermodalità. Al momento il porto sta investendo nel rinnovo dei piazzali, mentre i progetti futuri riguardano l'allungamento della banchina e gli interventi per ottimizzare lo scalo di navi di grandi dimensioni. La nostra visione è quella di un porto di Monfalcone internazionale, molto legato alla ferrovia, che possa amplificare quelli che sono già oggi le sue caratteristiche. E poi c'è anche l'elettrificazione delle banchine, non dimentichiamocelo, che facciamo sia a Trieste sia qui, abbiamo speso solo già adesso 7 milioni di euro e stanno andando avanti i lavori. Oggi, in questi giorni, peraltro anche assegneremo finalmente la darsena dei servizi tecnico-nautici, quindi anche i rimorchiatori del porto non andranno più in fondo al canale Valentinis, no, anche un po' interferendo con le attività della nautica, e sono tutti investimenti che pian piano stiamo facendo. Quali sono le opportunità per i nuovi traffici? Il traffico è un tema quantitativo, e piuttosto la questione importante è come farli andare via via ferrovia. Questa della ferrovia è veramente una sfida, anche perché riduce l'impatto ambientale. Monfalcone, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si avviano a conclusione i lavori di dragaggio all'interno di Porto Casoni, un'attività programmata e coordinata dalla Regione che sta interessando il porticciolo dei residenti dallo scorso mese di ottobre. A darne notizia, spiegando come tali interventi troveranno conclusione il 15 aprile, è il vice sindaco di Lignano La Placca, confermando anche che per gli assegnatari la disponibilità degli oltre 100 posti barca a partire dalla settimana successiva alla consegna dei lavori. Conferenza stampa questa mattina a Udine degli assessori all'agricoltura e alle attività produttive Zannier e Bini sulla partecipazione della regione a Vinitaly, la più importante fiera sulla produzione vinicola italiana, che si apre a Verona il 6 aprile. 80 aziende agricole faranno parte del padiglione collettivo del Friuli Venezia Giulia organizzato dalla regione. A queste vanno aggiunte le 56 che avranno un loro spazio autonomo e le 6 del padiglione biologico. Il Vinitaly si avvicina e in vista dell'inaugurazione il 6 aprile il sistema Friuli Venezia Giulia ha illustrato il modo in cui sarà presente. Completamente rinnovato lo spazio di 1500 metri quadrati della Fiera di Verona dedicato al Friuli Venezia Giulia, un concetto rivisto che offre alle 80 aziende agricole presenti la possibilità di far assaggiare i quasi 500 vini presenti e di chiudere accordi con i compratori, acquirenti, importatori e distributori che arriveranno da tutto il mondo in un momento di grande incertezza per i possibili dazi americani. Ci sono aziende che hanno fermato gli investimenti in attesa di capirne di più, rivelano le associazioni che rappresentano le imprese del settore, perché la riduzione e la quasi scomparsa del mercato americano avrebbe in molti casi un impatto serio sui fatturati. Il padiglione avrà una piazza centrale, un'enoteca e una sala degustazioni. L'investimento di Promoturismo FVG, presente con il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, supera i 2 milioni di euro. L'iniziativa in collaborazione con ERSA, l'ente regionale per lo sviluppo rurale. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 26 marzo, dopodomani, a partire dalle 9.30 a Pordenone, nella Villa Marini Cattaneo di via Villanova, si terrà il Recruiting Day organizzato dai servizi per il lavoro della Regione a favore di 14 aziende del territorio che cercano 250 persone in ambito amministrativo, tecnico, tecnico commerciale, della logistica, della produzione e della vendita. 1.114 le candidature ricevute, corrispondenti a 761 persone, questo perché ciascuna persona poteva candidarsi per una o più posizioni. 386 persone sono state ritenute non idonee rispetto ai requisiti richiesti dalle aziende, 375 sono invece state ritenute idonee e convocate all'evento, dove sosterranno i colloqui con le 14 aziende partecipanti. 77 candidati sosterranno ciascuno 2 colloqui per 2 diverse posizioni, 33 ne sosterranno 3, 12 4 e 3 addirittura 3. È incominciata la raccolta firme contro il grande polo logistico che dovrebbe sorgere a Porpetto nella Bassa Friulana come magazzino di prodotti freschi per i supermercati. La raccolta firme promossa dal Comitato di Cittadini No Polo Logistico si trova sul sito openpetition.eu e sarà presentata al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia una volta raggiunte le 2000 firme. La 33esima edizione delle giornate del FAI di primavera in Friuli Venezia Giulia ha confermato l'interesse verso quello che è riconosciuto come il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico meno noto o non accessibile nel nostro paese. Lo testimoniano le oltre 11.000 visite nelle 20 aperture in 12 località della regione in cui si è svolta l'iniziativa. A livello di singoli luoghi, 5 sono andati oltre le 1000 presenze: la scuola dei mosaicisti a Spilimbergo, l'ex palazzo dell'Oi Triestino, ora sede della regione autonoma a Trieste, Villa Necker sempre a Trieste, il palazzo Antonini Mangigli del Torso, sede del CSM a Udine. Code in fila paziente anche per le aperture di Casa Forte Bergum e Villa Gorgo. Presentato questa mattina a Pordenone il programma della 18esima edizione di Pordenone Docs Fest, le voci del documentario che si terrà negli spazi di Cinema Zero sempre a Pordenone. Sulle proposte sentiamo il direttore Riccardo Costantini. Il festival da sempre col documentario racconta l'oggi, l'attualità, le sue contraddizioni, per cui sicuramente i conflitti per Israele, Palestina e Ucraina, ma si parla anche dell'America, degli Stati Uniti di oggi e della crisi profonda della società in quel paese, si parla di razzismo, del ritorno del razzismo per esempio in Germania, si mostrano anche paesi molto lontani, passare dalla Bolivia al Cile per arrivare a documenti incredibili dalla Corea del Nord. Si parla molto di maternità, si parla di donne che lottano per i propri diritti e si parla anche di diritto all'aborto, quindi diciamo che sia un compendio tramite il documentario delle molte problematiche che ci sono nella nostra società di oggi. Quanti documentari saranno proiettati? Le proiezioni complessivamente sono circa una settantina, fra le retrospettive e il programma principale, abbiamo 28 anteprime nazionali e quindi una selezione che si offre a Pordenone davvero per la prima volta per pubblico italiano, selezionando peraltro il meglio, arrivano alcuni dei film principali, per esempio il premio del pubblico della Berlinale o il premio della giuria del Sundance, del grande festival americano, e quindi è una selezione soprattutto di qualità. Ci sono anche eventi paralleli? Sì, c'è una larga selezione di iniziative industry pensate per i professionisti, ma ci sono anche quelle cose che stanno a cavallo appunto fra i film e l'offerta per i professionisti, penso alle masterclass dei giurati, quella di Roberto Minervini, già vincitore dell'ultimo Festival di Cannes, o di Martina Parenti, che ha vinto invece il Festival di Amsterdam, o tavole rotonde dedicate a che cosa sia il documentario, in particolare online, oggi, e come ci si confronti con la realtà. C'è necessità di scegliere anche perché ci sono moltissimi concerti, ci sono cineconcerti, quindi un programma davvero ricchissimo che invita il pubblico a selezionare quanto di più affine ai propri gusti. Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il basket Serie A2, l'APU Old Wild West ha vinto ieri al Pala Radi contro la Juve Cremona per 79-68. Sentiamo allora l'analisi di coach Adriano Vertemati in conferenza stampa. Siamo contenti di questa vittoria perché sapevamo poteva essere un crocevia importante. Cremona veniva da due partite in trasferta in cui ha perso all'ultimo possesso, si è dimostrata eccezionalmente competitiva e sicuramente aveva puntato tantissimo subito al ritorno a Cremona per una partita in cui magari c'era anche poco da perdere da parte loro, quindi sono stati molto bravi a controllare la partita, praticamente è stato avanti sempre, giocarono 27-28 minuti perfetti, poi mo siamo calati noi perché comunque avevamo tre giocatori che rientrano da infortunio, quindi la condizione della squadra non era perfetta, un po' ovviamente Cremona ha fatto l'ultimo tentativo, un po' diciamo che anche gli arbitri hanno pensato che la partita fosse finita, insomma non dico che abbiamo rischiato perché non abbiamo rischiato, però Cremona si avvicina, siamo contenti, guardiamo alla prossima partita. Il giornale radio finisce qui, grazie per averci seguito da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova, grazie a Bruno Montevecchi per aver curato la parte tecnica e a Valentina Veneruso per aver collaborato in redazione. A tutti voi ancora grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.